sento nell'aria che è cambiata, che anticipa l'estate e che mi strina un po'. Io ti sento passarmi nella schiena, la vita non è rimasta.